Io sono un consulente finanziario, stress per natura, sì. Per lavoro viaggio moltissimo, macchina, treno, con la gastrite a top. La pancia borbotta, sed panciam borbottam, non so. Ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buon anno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Cuore e Denari, la prima puntata di questo 2014 che naturalmente speriamo sia un buon anno per tutti, soprattutto io ve lo auguro dal punto di vista del cuore, poi chiaramente se i denari ci sono non è che ci fanno male, ci scherziamo tante volte con Nicoletta Carbone su questo aspetto. Nicoletta si è presa qualche giorno di pausa come ho fatto io a Natale, quindi ci sarò io adesso per qualche giorno fino all'Epifania e naturalmente la Befana che vi tiene compagnia per tutte queste giornate. Di che cosa parliamo oggi in questa prima puntata dell'anno? Di un tema ricorrente in questo periodo: inizia la corsa all'ultimo scontrino, saldi al via in Campania, in Basilicata e Valle d'Aosta e poi sabato in tutte le grandi città italiane. La Confcommercio ha stimato che le famiglie italiane spenderanno in media quest'anno, approfittando dei saldi, poco meno di 150 euro. Le associazioni dei consumatori invece hanno preventivato una cifra un po' più alta. È anche strano che ci sia questa discrepanza di interpretazione della questione, perché in genere le associazioni dei consumatori sono un po' più severe e rigide e pensano che gli italiani spendano meno rispetto a quanto pensano invece le organizzazioni del settore. Di fatto però, a parte le cifre che girano, come al solito anche quest'anno si è riaperta, e anche questa è ormai una tradizione consolidata, la polemica sull'avvio della stagione ufficiale dei saldi, perché dicevamo oggi si parte con Napoli, Basilicata e Valle d'Aosta, ma quello che si rileva è che già da prima di Natale sconti, promozioni, offerte erano già partite in molti negozi per iniziativa individuale, perché i commercianti chiaramente avevano paura, le previsioni di vendita erano ai minimi termini. E allora, qual è la situazione? Raccontateci subito, fatemi compagnia, approfitterete dei saldi per farvi quel regalo a cui avete rinunciato quando prima di Natale era ancora a prezzo pieno? E quali sono le regole che disciplinano i saldi? Raccontatecelo, quindi prenotatevi subito all'800 24 00 24 e dunque partiamo immediatamente. Salva Danaio. Ora farete qualche giro per negozi a partire da oggi, anche se in realtà in tutte le grandi città italiane gli sconti partono sabato, il 4 gennaio. Cosa avete in mente di comprare? Avete in mente di approfittare degli sconti che praticheranno negozi e commercianti? Pensate, questa è una cosa che non c'entra moltissimo col tema di oggi, ma mi ha incuriosito e ve la racconto. C'è un'associazione dei consumatori che ha calcolato che, in barba agli sconti, il 15% degli italiani quest'anno non ha comprato regali per gli altri, ma ha donato qualcosa di riciclato. Questa è un'altra storia e magari con Nicoletta Carbone la affronteremo più avanti, il tema del riciclo. Ma parliamo oggi di saldi. Allora, la vostra esperienza 800 24 00 24, oppure se volete scriveteci al 349 238 6666, scriveteci una mail, avete anche questa alternativa, cuoredenari@radio24.it. Siamo su Facebook, siamo su Twitter e soprattutto siamo con due ospiti. Ringrazio e saluto Carlo Massoletti, vicepresidente della Federazione Moda Italia di Confcommercio. Commercio, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato e buon anno soprattutto, nostro amico. Grazie. Grazie anche all'avvocato Dalila Loiacono, legale del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buon anno, avvocato, eccoci qua. Tra l'altro, lo sportello, il Movimento Difesa del Cittadino, ogni anno in concomitanza con l'avvio dei saldi, sia invernali che estivi, organizza lo sportello del consumatore, appunto lo sportello saldi, pronto saldi, non me lo ricordo, avvocato, anche quest'anno l'avete fatto? Pensare in qualche maniera e direzionare anche il consumatore nelle orientarlo in qualche maniera nelle scelte più adeguate e naturalmente ragguardirlo su eventuali problematiche che potrebbero sorgere in virtù di questi saldi. Benissimo, allora tra l'altro anticipo già ai nostri ascoltatori che nel corso della trasmissione analizzeremo anche il tema del significato dello shopping per ognuno di noi, differenze di comportamento fra uomini e donne, quali sono i beni e gli oggetti che ci attraggono di più e soprattutto parleremo anche di quello che si scatena in ognuno di noi quando ci accorgiamo per esempio che abbiamo fatto il peggior affare della nostra vita, magari abbiamo approfittato proprio degli sconti, andiamo a comprare quell'articolo che abbiamo tanto agognato e sognato per mesi e poi trac, è un bluff. Cosa si scatena nel nostro comportamento appunto a livello emotivo? Andiamo subito allora a fare un po' un commento con la Confcommercio. Al di là delle cifre mazzoletti che circolano in questi giorni, come è tradizione che anche facciano i giornalisti, che vanno un po' a scandagliare il comportamento dei commercianti in fasi come questa, quella attuale è particolarmente difficile. Le vostre previsioni quali sono? Peraltro poi oggi c'è anche un lungo articolo sul tema dei saldi sulla Stampa che racconta e ricorda ancora una volta quale sia la difficoltà che vive il mondo del commercio. Pensate che vengono chiusi. Questa è una stima di Confcommercio, dell'osservatorio Confcommercio, non è una stima, è un dato in realtà reale. Vengono chiusi quasi 1000 negozi al mese, questo per appunto anche spiegare ai nostri ascoltatori il mondo del commercio che fase sta vivendo. Mazzoletti. Sì, è vero, è purtroppo così. È ormai nel 2013 che stiamo chiudendo, che abbiamo chiuso l'altro ieri, è proprio il sesto anno consecutivo di grande crisi per il settore, per il comparto commerciale nel settore abbigliamento. L'anno prossimo, il 2014, sarà il settimo perché già le stime sono di contrazione e noi ci auguriamo che queste stime vengano ribaltate a partire proprio da questi saldi invernali, che in realtà, se mi permette di correggerla, sì, l'acquisto medio per persona con commercio dice che sarà intorno ai 148 euro, mentre sì, invece quello per famiglia sarà 340. 340 è vero, avevo poi trovato anche questa cifra. Comunque, è una cifra soddisfacente per voi o no? Ma noi, più che altro è un auspicio a questo punto, ecco. Speriamo davvero che sia così, e ormai la contrazione davvero è stata molto pesante, il 2013 è stato l'anno peggiore di sempre da quando si fa statistiche. Speriamo che con i saldi ci sia un ritorno di interesse verso questo tipo di consumo, che io mi auguro che sia così, insomma, ecco, i negozi sono piuttosto forniti, i prezzi direi che sono piuttosto buoni e pertanto ci auguriamo davvero che le famiglie ne approfittino. Esatto, il problema è un altro, non è quello che contengono i negozi in questo periodo, è che come dice, è stata un'intervista che è stata rilasciata in questi giorni sui giornali, Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio, dice che i consumi sono fermi perché sono fermi due motori capaci di muoverli, i redditi, quelli disponibili nelle tasche delle famiglie italiane sono ai livelli di 27 anni fa e poi c'è un sentiment profondamente negativo che vede sfiduciati gli italiani per una percentuale del 66%. Mazzoletti, e però c'è un'altra questione sulla quale si divertono molti giornalisti, lo faccio anch'io questa mattina, che è quello del tema della partenza ufficiale o ufficiosa dei saldi, perché abbiamo riscontrato tutti che molti negozi già praticavano delle promozioni, delle offerte commerciali ben prima di Natale, hanno cominciato all'inizio di dicembre. Non lo si fa ufficialmente perché c'è una disciplina legislativa che stabilisce che le regioni diano il via ufficiale ai saldi, lo si fa proprio all'inizio dell'anno e all'inizio di luglio quando si parla di quelli estivi. Lei su questa vicenda in che posizione è? Non c'è nulla di male naturalmente ad attirare i clienti, soprattutto quelli più fedeli con delle offerte speciali, e però ogni anno c'è questa polemica. Ma quando la si chiuderà? Questo non lo so, qui ci sono davvero diverse correnti di pensiero che si scontrano, perché tutte legittime peraltro, perché c'è chi dice no, al momento in cui dobbiamo togliere tutte le regole e favorire le imprese commerciali mettendole in condizione di praticare il prezzo che vogliono, dall'altro canto c'è l'altra corrente di pensiero che dice no, bisogna cercare di proteggere questo momento, che è un momento dal punto di vista del marketing particolarmente importante per le aziende commerciali, perciò tenere bloccato finché si può ferma questa data con delle regole fisse. È difficile così capire un attimo su quale tendenza sposare. Devo dire che quest'anno, mai come quest'anno, abbiamo visto una rincorsa ai saldi, diciamo così, ai presaldi, agli sconti prima dei saldi, fatta attraverso messaggini via telefono, esatto, comunicazione personale, ma anche fatta attraverso internet. Ecco, devo dire che purtroppo internet sfugge a ogni regola, ecco, pertanto paradossalmente i negozi non possono fare i saldi nei 30 giorni prima della data inizio dei saldi, invece su internet chi ha, diciamo così, un proprio sito di commercio elettronico può farli, e questo è un paradosso discorso che purtroppo distorce direi più in maniera notevole la competizione. Lo so, ha ragione anche lei, però è molto, molto comodo il canale internet, naturalmente se si sa già bene quello che si vuole comprare si trova a un prezzo conveniente, ma Soletti le capisce che con l'aria che tira in periodi come questo le alternative non vengono neanche tenute in considerazione. Sì, devo dire peraltro che è anche un canale poco garantito, ecco, noi purtroppo riscontriamo sempre di più clienti che magari fanno un acquisto su internet e poi vengono a verificare se questo acquisto è buono o non è buono presso il loro negozio di fiducia, e purtroppo in questa verifica tante volte succede che riscontriamo. Va bene, magari la rete del commercio elettronico non sarà d'accordo con lei, ma magari una volta organizziamo un'altra trasmissione e vi mettiamo a confronto. Andiamo invece al tema proprio scelto per la puntata di oggi, del 2 gennaio, di Cuore Denaro, che è quello dei saldi. Prima di sentire cosa pensano di questa fase così delicata le associazioni dei consumatori e l'avvocato Dalila Lo Iacono, sentiamo anche gli ascoltatori che subito ci mettono a disposizione la loro esperienza, le loro idee su questo tema. Vi leggo anche qualche messaggio. Anna ci dice, a parte farci gli auguri di buon anno, dice: sono un anticonsumista, con me si casca male, Anna, qualcosa bisognerà pure comprarlo ogni tanto. Massimo da Udine, ecco qua un messaggio assolutamente allineato anche con la piega che stava prendendo adesso la nostra conversazione con Carlo Massoletti. Un acquisto lo faccio sempre, quest'anno è il turno di pantaloni da sci alpinismo. Devo dire però che il negozio di fiducia sta facendo sconti robusti da tanti mesi e io ne ho già approfittato, e infatti è proprio così. Lorenzo da Palermo, buongiorno, benvenuto e buon anno da Cuore Denari. Buongiorno anche a voi, buon anno. Grazie. Senta, io ho la sensazione che questo argomento che state approfondendo oggi è già stato superato dai clienti, dai cittadini, perché mi rendo conto che l'offerta ormai sono 365 giorni l'anno, e sono non tanto per la crisi, che è comunque una sua componente, quanto perché è cambiato il mercato, il modo di muoversi. Internet ha fatto molto. Io ormai acquisto buona parte delle cose in internet, acquisto quando ne ho la possibilità. Mi arrivano i messaggini di cui parlava il signore di poco fa durante tutto l'anno, ed è proprio perché il mercato va verso una maggiore liberalizzazione. L'aspetto dei saldi di fine d'anno oppure di fine estate, secondo me, è rimasto solo un fatto pubblicitario, un bombardamento fatto dalle televisioni che descrivono questo fenomeno, ma il dato reale è che ormai le offerte sono da tutte le parti, in tutti i negozi, compreso la rete. Chiudo semplicemente su questo, non volendo fare pubblicità: io ho acquistato molte cose su Amazon e gli sconti là ci sono costantemente, te li portano a casa, quindi come si vuole fermare questo processo? Con delle regole che ormai nessuno osserva più. No, tra l'altro, perché sono superate dai cittadini che vanno più avanti, spesso delle regole. È come se le regole non fossero adatte al sistema che cammina rispetto ad una globalizzazione. E lei pensi, Lorenzo, che in realtà ci sono anche dei soggetti sul mercato che io ascolto spesso e che ritengono che per la verità il nostro non sia un mercato sufficientemente liberalizzato ancora? Io invece sono d'accordo con lei, poi a prescindere, diciamo, dal canale di vendita che lei privilegia e che ci ha detto poco fa, lo conoscono tutti questo sito, c'è chi però in realtà preferisce toccare con mano l'articolo che vuole comprare e per il quale appunto aspetta proprio la stagione dei saldi. Però sul tema di una come dire condizione ormai anacronistica possiamo essere un po' tutti d'accordo. Sentiamo cosa la pensa, come la pensano le associazioni dei consumatori. Dalila Lo Iacono, lei è un avvocato, a parte occuparsi, diciamo, delle disavventure in cui possono incappare i consumatori, la sua idea su questo tema qual è? Ma guardi, anch'io sono convinta che sia un'idea profondamente anacronistica, anche perché, posto che tra l'altro questa corsa ai saldi, comunque questi saldi erano già iniziati da tempo, ma anche addirittura dagli stessi negozi venivano propalati, almeno da quanto ci hanno segnalato gli stessi consumatori, già mettevano alcuni negozi addirittura sfacciatamente scritte promozionali in vetrina, a chi si ingegnava addirittura inviando sms, letterine, tessere di sconto, oppure addirittura si abbassava il prezzo nel momento dell'acquisto. Quindi direi che assolutamente mi pare un fenomeno anacronistico, atteso che tra l'altro ad oggi anche dobbiamo leggere rispetto alla congiuntura economica attuale, mentre comunque dei paletti così rigidi all'inizio dei saldi non mi pare assolutamente una buona idea, atteso che comunque tutte le famiglie hanno atteso comunque sia il l'inizio ufficiale dei saldi anche per acquistare poi dei capi o comunque dei regali, per cui in realtà quello che poteva essere l'incameramento di denaro da parte dei negozianti in una fase precedente, quindi storica, a tutt'oggi non è così, quindi secondo a mio avviso lasciare questa tempistica che rimane di fatto oltretutto, perché ripeto, almeno dalle segnalazioni che ci sono pervenute, ma anche condivido la posizione dell'ascoltatore che ha chiamato poco fa da Palermo, nel quale ci in qualche maniera illustrava anche tramite internet il sistema che ci metteva a disposizione comunque la scontistica rispetto a quelle o comunque le promozioni che vengono propalate continuamente su internet, ritengo che sia sicuramente molto più appropriato in qualche maniera sdoganare o quantomeno anticipare la fase di quella che sono i saldi, ecco. 800 24 00 24, continuate a condividere con noi il vostro pensiero su questo tema, ma soprattutto andiamo anche alle cose spicciole, raccontateci che cosa avete in mente di comprare approfittando dei saldi e anche i salti mortali che facciamo per poterceli permettere dal punto di vista economico, e visto che oggi si parte in campagna, Basilicata e Valle d'Aosta, ma poi in tutte le grandi città italiane sabato prossimo, e chissà cosa non succederà a Milano, che naturalmente per definizione è la città dello shopping. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Carlo Massoletti, le do l'opportunità di replicare all'ascoltatore e all'avvocato Loiacono, in più le chiedo anche, per soddisfare la curiosità che ha un ascoltatore, Giorgio da Torino, che ci scrive, come fanno queste associazioni a sapere prima con questa precisione quanto spenderemo per i saldi? Come fate voi a calcolare in anticipo la spesa media per nucleo familiare e per singolo individuo? Beh, guardi, sono sostanzialmente delle stime sul mercato complessivo e sul peso che poi ogni azienda ha rispetto a questo mercato complessivo nel periodo dei saldi. Con il peso del fatturato che un'azienda ha nel periodo di saldi. Fatto questo, una volta diciamo così stabilito questa stima, si fa una semplice operazione matematica: il numero delle famiglie italiane sono 25 milioni circa, il numero delle famiglie che si stima che acquistino i saldi, cioè che hanno una potenzialità d'acquisto, sono circa 16 milioni, il numero dei componenti medi per famiglia sono 2,3, perciò con tutti questi calcoli si riesce a stimare quanto sarà la spesa media per famiglia e la spesa media per persona. Ecco, devo dire a proposito delle date che in realtà i saldi sono un momento in cui i negozi vendono qualche cosa che è restato negli assortimenti, che è rimasto negli assortimenti, che non è stato venduto negli assortimenti nel periodo di vendita regolare, e pertanto è un momento in cui si realizza qualche cosa che andrebbe o messo a magazzino oppure venduto a prezzi ancora più bassi in un mercato parallelo che è quello degli stock di merce. Ecco, per questo è il vero motivo per cui i saldi sono convenienti sia al negoziante che al consumatore. Se dovessimo eliminare per ipotesi la data di inizio dei saldi e perciò promuovere un'idea di saldi tutto l'anno, evidentemente, siccome le imprese commerciali poi in qualche maniera devono stare sul mercato, dovrebbero rendere profittevole anche questo tipo di vendita e pertanto dovrebbero sicuramente praticare dei ricarichi più alti per poter fare poi degli sconti durante il periodo di vendita regolare. Ecco, questo evidentemente metterebbe sul mercato molta merce anche di qualità più bassa, di qualità più scadente, che è quella che permetterebbe un ricarico maggiore. Alla fine, insomma, credo che il momento dei saldi sia un momento di grande trasparenza anche nei confronti del consumatore. Ecco, ha citato un tema molto importante, Massoletti, il tema della trasparenza. L'importante è che se il negoziante, il commerciante mette in vendita nel momento dei saldi anche appunto collezioni magari non più freschissime e giovanissime, lo metta bene in evidenza nel negozio, no? Gli sconti di un certo tipo sono su merce magari di collezioni vecchie, sulle collezioni più fresche invece anche in questo caso deve essere ben chiarito al consumatore che entra nel negozio. Ma direi che guardi, prima di tutto il consumatore oggi è molto allenato a riconoscerle queste cose, perché è molto attento, c'è molta stampa, i consumatori sono più aggiornati qualche volta addirittura dei negozianti rispetto ai prodotti nuovi rispetto a quelli vecchi, e comunque se spesso le percentuali di sconto più alte si riscontrano sui prodotti più vecchi, che non vuol dire che non siano prodotti comunque di qualità, magari sono prodotti di qualità che non hanno il colore aggiornato oppure non hanno la costruzione particolarmente nuova, però direi che questo non non coinvolge, diciamo così, non limita la qualità del prodotto, e pertanto spesso si fanno degli ottimi affari anche su questi tipi di prodotto molto scontati, certo, ancorché un po' vecchi. Senta Massoletti, adesso le voglio chiedere un'altra cosa, una deriva un po' dalla trasmissione di questa mattina, ma che in realtà, come direbbe Di Pietro, ci azzecca lo stesso. Un ascoltatore ci dice: guardate che non è Milano la città dello shopping, ma è Serravalle Scrivia dove si trova il famoso outlet. Oltre a questo ce ne sono tanti in tutta Italia. La maggior parte della clientela in questi outlet è di madrelingua russa e orientale. Per fortuna che ci sono questi acquirenti che arrivano anche da zone molto lontane, ma Massoletti, con portafogli ben forniti, che non aspettano certo la stagione dei saldi per comprare le belle cose italiane. Questo è vero, e grazie a Dio questi signori non vanno solo gli outlet, ma vanno anche nei negozi tradizionali, perché se andiamo nelle grandi vie dello shopping italiano troviamo spesso una babele di lingue, troviamo gente che parla in russo, in cinese, e comunque evidentemente sono vie che attraggono molto i consumatori turisti che vengono dall'estero, proprio perché lo shopping in Italia è comunque uno shopping di qualità, e questo viene riconosciuto da tutti i paesi del mondo. Piuttosto questi acquirenti che arrivano dalla Russia e da altre zone ricche hanno un altro problema adesso, che è quello che arrivano con delle valigette piene di soldi e non sempre possono comprare tutto quello che vogliono in contanti, Massoletti? Perché certo, abbiamo una disciplina molto rigida. Questo è vero, questo è un grosso problema che abbiamo evidenziato ripetutamente al nostro governo, dove spesso diciamo così, questi clienti sono abituati a viaggiare in contanti e a pagare in contanti, e noi invece come negozianti abbiamo questo limite che ci impedisce di poter vendere in contante, e dobbiamo richiedere o un metodo di pagamento identificabile o identificare il turista, e questo è sicuramente una fase di estremo imbarazzo. Allora 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Sentiamo cosa ci racconta Stefano da Monza. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. E buon anno soprattutto. Grazie anche a voi. Il mio intervento era volto a poter chiedere quando anche da noi in Italia ci potremmo allineare a altre capitali europee, come ad esempio Londra, che anticipa i saldi all'inizio delle festività. E mi sembra che l'economia inglese, londinese in particolare, sia un po' meno, diciamo, sofferente della nostra. La nostra avrebbe bisogno di uno slancio e di un aiuto anche rivolto ai commercianti, e senza queste ferree regole che vedono i saldi poi distribuiti per città in date diverse. I negozianti, porta la mia esperienza, hanno già iniziato molto in anticipo. Sì, ma il tema dal quale siamo partiti, Stefano, proprio nella consapevolezza di questo, di un avvio in sordina molto anticipato dei saldi. Ho capito, ma un messaggio alla popolazione e le istituzioni dovrebbero darle, togliendo questa libertà, diciamo, di arrangiarsi in sordina, certo, e ufficializzando, e dando anche quindi una comunicazione a tutti quanti che c'è la volontà di far affacciare acquisti, soprattutto merce, quella esposta e non merce recuperata dal magazzino. Stefano, grazie molte per il suo contributo. Buon anno a tutti da Harrods a Londra, che inizia gli sconti, che tra l'altro ha anche gli alberi di Natale in vetrina a partire da settembre. E allora Massoletti, torno ancora a lei prima di ritornare all'Associazione dei Consumatori. Come dicevamo, ci si sta andando verso questa direzione fondamentalmente. Ma tra l'altro poi il commerciante che inizia, come abbiamo detto, un po' in sordina i suoi sconti, magari nei confronti della clientela più fedele, quella che frequenta il solito lo stesso negozio da molto tempo, si sente in che condizione? Si sente un po' quasi come se operasse in maniera non trasparente nei confronti dei colleghi? Guardi, no, in realtà la cosa ha un aspetto diverso. Direi che quasi tutti i negozianti ormai hanno un loro elenco di clienti affezionati e comunica, diciamo così, verso questi clienti affezionati la possibilità di poter accedere a un prezzo più vantaggioso anche in periodi non di saldo. Insomma, è una piccola leva di marketing che le imprese commerciali utilizzano in questa fase di mercato particolarmente difficile, e comunque dimostra una vicinanza, certo, ai propri consumatori più affezionati. Invece di chiudere, meglio il messaggino al clientele fidelizzato e fargli un po' di sconto, invece che, come dire, paventare la chiusura dell'esercizio. Cuore e denari. Dai, fammi lo sconto. quante volte ci sarà capitato di essere protagonisti di una scena come questa, insomma, andiamo in un negozio a comprare la cosa che ci piace, magari lì cominciamo a negoziare con il titolare dell'esercizio commerciale o con la commessa per avere un piccolo sconto, e sicuramente questi sconti cominciano da oggi in via ufficiale in tutta, non in tutta Italia, oggi in tre regioni, tocca la Campania, la Basilicata e la Valle d'Aosta, poi sabato 4 gennaio si parte in tutto il resto d'Italia. Quanti affari faranno gli italiani che magari hanno rinunciato ad un acquisto prima delle vacanze appunto natalizie in attesa che partisse la stagione degli sconti e quindi così auspicando di portarsi a casa quell'articolo tanto sognato magari per molti mesi e che adesso costa un po' meno, ma non è detto, perché in realtà il tema che stiamo affrontando questa mattina, molti esercizi commerciali, tantissimi, forse quasi tutti, pur senza dirlo apertamente, hanno cominciato in realtà già a praticare degli sconti ai propri clienti da molto tempo prima di Natale, altrimenti si sarebbero fatti ben pochi affari quest'anno con la crisi che continua ancora a mordere, anche se qualche piccolo raggio di luce qualcuno dice di vederlo, ma insomma raccontateci anche voi se lo vedete. Intanto lo sto vedendo dalla mia mail, molte altre associazioni dei consumatori, Dalila Lo Iacono, Movimento Difesa del Cittadino, qualche vostra collega sta diramando la lista dei consigli per fare un acquisto consapevole in questo momento e soprattutto non lasciarsi gabbare e abbagliare magari così da un acquisto sbagliato. Ci dà qualche prima regola, poi le scandaglieremo tutte nel corso della trasmissione. Le prime due regole per fare un acquisto giusto in fase di saldo. Allora, senz'altro, dunque, anche il Movimento Difesa del Cittadino mette a disposizione il decalogo delle regole, quindi come tutte le associazioni di consumatori che bene o male sono allineate secondo un po' quelle che sono le regole comuni. Peraltro un paio di regole posso dire: conservate sempre lo scontrino, è fondamentale. Trattandosi peraltro di carta termica sarebbe opportuno quantomeno fotocopiare lo stesso scontrino, così che se il prodotto dovesse rivelarsi difettoso si ha la possibilità comunque di chiedere il cambio. Ancora, le vendite, e riagganciandomi a quello che erano il discorso di prima, devono essere realmente di fine stagione, cioè la merce posta in vendita sotto la voce saldo deve riguardare esclusivamente l'avanzo di quello che è della stagione, cioè che sta finendo, e non fondi di magazzino, perché qualora trattasi di fondi di magazzino deve essere comunque ben... Ah ecco, non è che non si possono mettere, devono essere ben chiari. Devono essere assolutamente ben chiari, assolutamente sì, tant'è vero, diffidate quando troviamo degli sconti che sono superiori al 50%, invitiamo caldamente quelli che sono i consumatori a diffidare da sconti così elevati, anche perché la percentuale che poi evidentemente il commerciante ne trae sarebbe bassissima, per cui quando troviamo un capo al 70-80% invitiamo caldamente i cittadini a farsi comunque delle domande e a chiedere allo stesso negoziante, quindi lumi su quello che è il prodotto che stanno acquistando. E tra l'altro Massoletti, appunto, a proposito di questa questione degli sconti che superano il 50% del costo iniziale, no? C'è questa associazione dei consumatori, l'ADUC, che ha mandato poco fa le istruzioni per l'uso e dice: nessuno regala niente, difficilmente un commerciante ha ricarichi superiori al 50%, a meno che non si tratti di un artigiano che produce da sé. Effettivamente di fronte al 50% qualche dubbio qualche volta ci viene, però è anche vero che se magari un commerciante deve tenersi un invenduto per anni sugli scaffali o in magazzino, magari meglio lo vende al 50% perdendoci qualcosa, piuttosto che, come dire, conservarselo lì inutilmente, no? Sicuramente così, è evidente che qualche dubbio viene ed è giusto che il consumatore faccia le analisi corrette, approfondisca la cosa, faccia le verifiche e chieda magari anche al negoziante, però è evidente che per un negoziante l'idea di poter far fuori qualche prodotto che è particolarmente complesso dal punto di vista, diciamo così, della qualità estetica, ecco, riuscire a farlo fuori in qualche maniera in fondo alla stagione è più conveniente che tenerlo lì in un momento particolarmente difficile come questo, in cui la crisi di liquidità spinge proprio le aziende a cercare di realizzare tutto il possibile. Senta, il negoziante naturalmente, se l'articolo non ci convince più, è obbligato a sostituire l'articolo se è difettoso. Il commerciante ci dice sì, va bene, te lo faccio cambiare, ma devi ritornare nel giro di una settimana, che cosa possiamo fare appunto per convincerlo invece del fatto che, se non sbagli, abbiamo 2 mesi di tempo per fare un cambio? Sì, no, se il prodotto effettivamente presenta dei difetti o non è conforme, che significa per esempio che può riportare una composizione differente da quella che effettivamente è, ecco, allora il consumatore ha diritto alla sostituzione del capo e a una sostituzione tempestiva, ecco. Se invece è una questione di gusto? Se è una questione di gusto, questo è, diciamo così, nelle facoltà del negoziante sostituirlo o meno. Teniamo conto che il vantaggio economico spesso spinge il negoziante a ridurre anche la quantità di servizio che viene aggiunta come valore al prodotto stesso, pertanto io ritengo che lì il consumatore deve un po' capire che cosa è conveniente per lui, se acquistarlo correndo il rischio di non poterlo cambiare oppure se rinunciare all'acquisto, ecco, diciamo che sta un pochettino anche nelle scelte del consumatore. Allora, intanto, visto che non so se è una casualità, mi stanno arrivando appunto le iniziative di tutte le organizzazioni del territorio in questa fase, appunto Federmoda Milano, probabilmente lei Massoletti la conoscerà anche, questa iniziativa organizza Saldi Chiari, l'iniziativa appunto tradizionale di Federmoda Italia Milano, con la quale si stila proprio l'elenco molto preciso e dettagliato di tutte le regole che disciplinano la fase dei saldi, e queste regole riguardano l'utilizzo per esempio delle carte di credito, il cambio merce di cui abbiamo parlato poco fa, la prova dei prodotti, l'uniformità dei prezzi, le riparazioni e poi anche il contenzioso che speriamo non si verifichi. 800 24 00 24, continuate a farmi compagnia questa mattina in questa prima giornata di diretta di Cuore e Denari del 2014, chiamateci all'800 24 00 24 come ha fatto Fabrizio dalla provincia di Pesaro Urbino. No, che è caduto, ma adesso lo recuperiamo molto rapidamente. Dalila Loiacono, capita che i consumatori vengano a lamentarsi allo sportello vostro, come quello delle altre associazioni, per il fatto che durante gli sconti i commercianti fanno un po' di resistenza nel far utilizzare lo strumento elettronico di pagamento, quindi bancomat e carta di credito? Assolutamente sì, e poi se mi permette vorrei fare una precisazione proprio giuridica per quanto riguarda anche il cambio merce. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo delle carte di credito, se va precisato e va evidenziato che se il commerciante espone la possibilità di pagare con carte di credito, quindi all'esterno, certo, proprio sulla vetrina, ecco, del proprio negozio, il commerciante è obbligato anche in periodi di saldi ad accettare qualsiasi forma di pagamento, quindi anche quelle delle carte di credito, del bancomat, qualsiasi forma che sia in qualche maniera consentita dallo stesso negoziante e pubblicizzata dallo stesso negoziante. Va da sé, come associazione di consumatori mi sento in qualche maniera di raccomandare ad acquisti prudenti, cioè mi spiego, questo perché molto spesso vengono utilizzate carte revolving. Attenzione, perché poi se c'è un pagamento rateale c'è il 20% di interessi, quasi, non dico il 20, ma insomma siamo sul 17-18%, quindi il consumatore deve essere orientato anche in questo senso. Ci sono ancora queste carte revolving, Loiacono, in giro? Perché io pensavo che dopo un picco di sottoscrizioni qualche anno fa, in realtà dopo aver visto il funzionamento e constatato loro malgrado da parte dei consumatori appunto avessero abbandonato un po' questo strumento, invece è piuttosto diffuso, guardi, tuttora vengono emesse continuamente dai istituti di credito, l'altro, ecco, non mi pare il caso di menzionarlo in questa sede, ma insomma c'è un istituto di credito proprio che sta recentemente anche pubblicizzando in maniera abbastanza sì. Adesso che me lo dice mi è venuto in mente anche a me. Comunque, detto questo, vabbè, allora attenzione se si utilizza la revolving, e se poi magari avete voglia di cambiare l'articolo, questo diventa un po' più complicato. Abbiamo terminato, Loiacono. Doveva aggiungere la conformità del prodotto, allora innanzitutto la garanzia sulla conformità è di 2 anni, sono 2 mesi, 60 giorni decorrono dal momento in cui noi ci accorgiamo che il prodotto non è conforme, quindi mi riferisco in particolare anche all'etichetta, cioè la composizione del prodotto che magari ci è stato venduto rispetto a determinate caratteristiche, e se io mi dovessi accorgere che effettivamente questo prodotto non è conforme dopo 3 mesi, non sono decaduta, i 2 mesi decorrono dal momento in cui ho avuto contezza, quindi ho in qualche maniera del prodotto che non è conforme, ecco, questo ben intendo. Però adesso io qui mi metto dalla parte anche dei commercianti, io posso anche capire che magari se capita, e sono certa che i casi siano assolutamente rari, che vendano beni non conformi, non aspettiamo ad accorgercene 5 mesi dopo, perché poi comincia a diventare anche sgradevole, ecco. Però dobbiamo essere anche precisi in questo senso, perché magari può accadere, quindi ecco, ben inteso, senz'altro, ecco, una magari è un regalo, lo si consegna dopo un po' di tempo e lì può capitare. Esattamente, proprio l'esempio che le volevo fare, e ad ogni buon conto Ecco, invece una cosa diversa, se invece il prodotto è perfettamente conforme, non c'è nessun obbligo da parte del commerciante di cambiare, ecco, il prodotto, ecco, questo senza alcun dubbio. Certo. Ad ogni modo girate, verificate, fate attenzione all'etichetta, quindi comunque che viene esposta, sulla percentuale di sconto che viene applicato, deve essere comunque ben visibile quello che era il prezzo precedente, la percentuale di sconto e quindi il prodotto scontato. Fate attenzione perché, per esempio, un'altra cosa che ci è capitata, che probabilmente per una svista accade molto spesso, che viene indicata una percentuale ma poi a conti fatti lo sconto è non corrisponde alla percentuale che viene indicata. Non solo, quello che capita qualche volta, raramente, lo ribadisco, però qualcuno c'è anche incappato, è che magari un articolo costa 100 prima degli sconti, poi quando parte la stagione dei saldi nell'etichetta, nello scontrino che viene messo in mostra, c'è scritto che il prezzo pieno originale era magari di 120, poi viene applicato lo sconto e va a finire che appunto il prezzo finale è di 90 e però insomma non si è partiti dal 100 originale. Vabbè, anche questa è un'altra questione che, se vorrete, affronteremo. 800 24 00 24. Abbiamo riacciuffato Fabrizio dalla provincia di Pesaro Urbino. Sì, buongiorno. Buongiorno e buon anno, Fabrizio. Grazie anche a voi. Ci dica. Io ho avuto un paio di esperienze, ho avuto un negozio di abbigliamento che, se uno ci va, li visita nel mese di dicembre, trova degli assortimenti minimi che uno si chiede anche come fanno a vendere. Poi improvvisamente, quando iniziano gli sconti, hanno merce fino a soffitto. Soprattutto poi è merce che prima non c'era, cioè sono prodotti nuovi. E questa è una cosa che si nota spesso. Era pure qualche giacenza di magazzino, ma Fabrizio ha notato anche se questi nuovi articoli che lei prima non ha visto vengono magari collocati in una parte del negozio molto ben identificati, merce? No, è tutto mischiato al resto del negozio. E poi un'altra cosa è che spesso il prezzo che è in sconto in realtà è il prezzo che già era di vendita, nel senso che mi è capitato con un paio di scarpe che io l'avevo puntate che costavano, so per dire, 100 euro. Pensavo di acquistarli in sconto, quando sono andato a vederle che c'era già la liquidazione, il prezzo era sempre 100 euro. Allora ho chiesto al commerciante, ma com'è che il prezzo è sempre quello? E lui mi ha risposto perché erano già in sconto. Il prezzo già scontato prima che iniziassero gli sconti. Chissà che nervoso che ha Massoletti a sentire anche queste situazioni, che saranno anche rare, saranno delle circostanze isolate sicuramente, però ogni tanto capita ed è comunque spiacevole, immagino, anche per chi rappresenta tutto il mondo del commercio. Cuore e denari. Ci ritrovati in diretta con Cuore Denari questa mattina tutta imperniata sui saldi invernali che prendono il via oggi e poi con il botto prendono il via sabato 4 gennaio in tutte le grandi città italiane. C'è un ascoltatore che mi sta segnalando l'aumento e i rincari dei pedaggi autostradali da oggi, lo sappiamo, lo dico a Lorenzo perché ne avevo parlato anche prima del Capodanno in una puntata con Nicoletta Carbone, appunto spiegando quali fossero gli aumenti in procinto di partire proprio da ieri, e quindi tutti gli sconti di cui approfitteremo con i saldi in questi giorni saranno vanificati dal prossimo viaggio in autostrada che faremo, perché da lì ricominciamo appunto a pagare i rincari di quest'anno, che saranno anche molti purtroppo, a prescindere da chi dice che la pressione fiscale è in diminuzione, ma per la verità gli italiani purtroppo non se ne sono ancora accorti, per cui mi raccomando, il governo che si metta in testa in quest'anno di farci vedere gli effetti concreti di queste cose che loro vedono. Adesso che cosa facciamo? Diciamo che i saldi qualche volta ci fanno perdere la testa. Essere e benessere. Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare, mi serve davvero? Signore, dovete avere il volantino per entrare. Potete entrare anche da questa parte. Ho bisogno di questi guanti. guanti di cashmere dato che è inverno e possiede un... Non potevamo non rispolverare i Love Shopping. Tutte le volte che facciamo questo argomento ritiriamo fuori questo film che ci descrive molto bene quello che si scatena nella nostra testa, soprattutto delle donne appassionate di shopping, anche se capita anche a qualche uomo, adesso ne parleremo, quello che si scatena dentro di noi quando appunto possiamo mettere le mani su quell'oggetto tanto desiderato, su quel capo d'abbigliamento in particolar modo che magari abbiamo così osservato a lungo nel nostro negozio preferito, poi arrivano i saldi e zac, possiamo farlo nostro. Però che con i saldi tutti possono perdere la testa, lo conferma anche una ricerca dell'Istituto Scientifico di Bonn in Germania, che ha dimostrato come davanti a sconti e offerte speciali il cervello spegne le funzioni razionali. Risultato? Spese pazze nel periodo dei saldi. L'importante è però non farsi prendere la mano. E allora commentiamo tutto questo con la dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni, provincia di Como. Dottoressa Torti, buongiorno e buon anno. Buongiorno, buon anno a voi. E allora, anche su questo, peraltro, una domanda per i nostri ascoltatori a cui voglio chiedere. Intanto, qual è stato quel momento, quel giorno, quell'anno in cui anche per colpa o grazie ai saldi avete fatto l'affare del secolo o l'acquisto più clamorosamente sbagliato della storia e della quale ancora siete pentiti, del quale ancora siete pentiti e per il quale ancora vi mordete dietro al gomito? Dottoressa Torti, finché si resta nel confine del piacere che ci viene dal fatto che prendiamo qualcosa per noi o magari per qualcuno a cui vogliamo bene, non ci sono problemi. Quando si complica la situazione però, di fronte al saldo? Direi proprio quando ci si fa prendere troppo la mano, come dicevamo, quindi quando al desiderio, al bisogno si sostituisce la frenesia, quando prendo una cosa poi però ne prendo anche un'altra, quando si perdono di vista quindi gli obiettivi e gli scopi dell'acquistare con i saldi. È sano, come diciamo, prendersi qualche lusso, ma è anche altrettanto un bene sapersi porre dei limiti. Teniamo presente che il cervello è formato da due parti, una parte più razionale, si chiama cervello nuovo, è la parte dove c'è la fronte più o meno, e una parte invece più antica, chiamata appunto old brain, il cervello antico fatto di istinti, emozioni. Ecco, il cervello che spinge all'acquisto è proprio questo, quello dell'old brain, quello delle emozioni. Quindi noi in qualche modo cosa succede nel nostro cervello? Anticipiamo il piacere dell'ottenere quella cosa. Quindi il momento più cruciale è proprio non tanto il dopo l'acquisto c'è la parte razionale, ma il momento che precede, quando siamo nel negozio, lì si attiva il cervello che spinge e spinge a ottenere quella cosa che ci piace tanto e appunto che si vede come un guadagno. Teniamo presente che durante i saldi tutto questo è amplificato, quindi il cervello spinge di più. Il mio consiglio quindi per bilanciare e non perdere il controllo è quello di fare una lista, come d'altra parte ho sentito fare qualche ascoltatore, una lista delle cose prioritarie, tutto il resto è fuori. Anche se poi, come dire, quando magari entriamo nel negozio e vediamo tante cose belle, chissà la lista quante volte l'abbiamo stracciata e rifatta. Bravissima. Lì mentalmente. Ecco, questo magari è un altro problema da affrontare, adesso lo faremo con lei, dottoressa Torti, che sta con noi fino alle 12.30, però volevo anche dare la opportunità a Carlo Massoletti della Federazione Moda Italia Confcommercio di replicare alle questioni che sono state sollevate prima dagli ascoltatori, che sono arcinote, ne abbiamo parlato tante volte. E allora, se ci accorgiamo, Massoletti, che volevamo quella scarpa, avevamo visto che prima dei saldi costava 100 euro e magari immaginavamo di trovarla con la partenza degli sconti, non dico a 50, ma a 80, 75, e invece la ritroviamo a 100 e magari ha su proprio il cartello con scritto prodotto scontato e viene rifatto, rimesso, un prezzo originario nuovo che magari è di 120. Io dico chiaramente che la scarpa la dobbiamo lasciare lì, però ci infastidisce un po' questo commerciante furbetto quando fa così. Direi che i consumatori hanno perfettamente ragione, questo comportamento è un comportamento spiacevole che costa violentemente contro il criterio della trasparenza che noi suggeriamo a tutti i nostri imprenditori associati. Però da un certo punto di vista mi fa piacere che i consumatori se ne accorgano, i consumatori sono sempre molto più attenti, la stragrande maggioranza dei consumatori è attenta, come peraltro la stragrande maggioranza dei negozianti è corretta. Ecco, in questo caso il comportamento mio per di questo signore poi si ritorce contro lui stesso, perché questo signor negoziante, intendo dire, perché poi questo il consumatore non fa altro che lasciargli la scarpa e andare a cercare magari un altro negozio che agisce con un criterio di maggiore trasparenza. Tra l'altro, Massoletti, guardi, la interrompo solo perché Tina al 349-238-6666 ci scrive: ma l'esposizione di questo cartellino del prezzo è obbligatorio? Perché io vedo spesso negozi che non lo espongono, non so se si riferisca alla stagione tradizionale, non a quella dei saldi, che capita, magari ti costringe effettivamente ad entrare per chiedere quanto costa quello e quell'altro. Durante i saldi è obbligatoria l'esposizione del cartellino? Sì, è obbligatorio come è obbligatorio in tutti i tempi normali, ecco, si parla delle vetrine naturalmente, poi all'interno, voglio dire, i capi normalmente sono tutti prezzati, hanno il loro cartellino del prezzo, questo succede in quasi tutti i negozi, ecco, pertanto è sicuramente obbligatorio, cioè il criterio della trasparenza deve essere sempre adottato da parte negoziante verso il consumatore, ed è giusto che i consumatori lo pretendano. Tra l'altro è anche così curioso che ovviamente quando facciamo questa puntata, e la facciamo tradizionalmente in questo periodo, e lo ribadisco, all'inizio di luglio, quando prende il via la stagione ufficiale dei saldi estivi, in realtà ci focalizziamo appunto fondamentalmente sull'abbigliamento, però avvocato Lo Iacono, in realtà gli sconti riguardano un po' tutti i beni tutte le categorie merceologiche, no? In questo momento chiaramente aspettiamo i saldi per comprare magari il cappotto al 70%, perché quello è un acquisto impegnativo e se costa un po' meno ci fa comodo, però in realtà in questo periodo partono un po' tutti i saldi. Assolutamente sì, naturalmente riguardano tutte le categorie merceologiche, quindi in realtà ci si concentra maggiormente sull'abbigliamento, ecco, dai dati statistici, anche se in effetti ci sono tutte le categorie, molto spesso insomma mi capita anche che vengono acquistate anche in questo periodo, ecco, notoriamente adesso ultimamente ci segnalano soprattutto dell'high tech o comunque di prodotti di computer piuttosto che insomma telefonia e quant'altro. Ecco. Avvocato Lo Iacono, lei quando entra in un negozio che cosa c'è, il commerciale? Gli vengono subito i capelli bianchi, li mette un po' in difficoltà con delle domande, domandone, ritorna poi a riportare, le sono capitate, lei poi anche proprio nella veste che ci rappresenta questa mattina, dei casi di fronte ai quali ha dovuto prendere una posizione del tipo: ma lei lo sa chi sono io? Ah, guardi, mi sono capitate sicuramente, insomma, per fortuna sono casi sporadici, perché preferisco acquistare di solito da negozianti di fiducia, ecco. Eccolo, quindi raramente mi reco magari in negozi che difficilmente conosco. Ad ogni buon conto, sì, mi è capitato in quel caso, ecco, devo essere sincera, mi è stato giustificato molto spesso con delle sviste, ecco, e ad ogni però per fortuna, ecco, il negoziante si è ravveduto immediatamente, quindi per fortuna, insomma, sotto questo punto di vista diciamo che, ecco, a livello anche di commercianti non abbiamo dovuto prendere provvedimenti in qualche maniera pensevoli, ecco, diciamo. 800 24 00 24, continuate a raccontarci la vostra esperienza con i saldi, ma soprattutto raccontateci anche se avete qualche particolare sensazione emotiva sconvolgente quando potete mettere la mano su quell'oggetto, su quel capo d'abbigliamento tanto desiderato. Con i saldi scoprite che ve lo potete permettere, cosa si mette in moto, cosa si attiva anche nel vostro cervello, quell'old brain che ci spiegava prima la dottoressa Torti, lo sentite appunto che è un po' più in fermento rispetto al solito appunto. Poi ne parleremo diffusamente con la nostra psicoterapeuta, ma adesso sentirei un altro paio di ascoltatori, Fabrizio da Milano e Maria da Milano. Fabrizio, buongiorno, pronto? Si scatenerà buongiorno. Sabato? Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo segnalare una cosa. Io lavoro nel campo del vetro e noi facciamo le vetrate isolanti che costano intorno ai 40 euro e le marchiamo con semestre di produzione e anno di produzione. Perché la stessa cosa non può essere fatta sui capi che le aziende sull'etichetta riportano direttamente il semestre di produzione e l'anno di produzione? Sentiamo un po' se è una procedura particolarmente complicata o se magari è osteggiata dai commercianti. Massoletti, come la vede questa proposta fatta da nostro ascoltatore milanese? Ma guarda, in realtà se ne è parlato anche nel passato, non è una cosa sciocca, è assolutamente una cosa, direi, interessante, che può essere anche uno spunto positivo per dare maggiore trasparenza al mercato. Io non ci vedo niente di strano. Probabilmente diventerebbe complicato poi riuscire a farlo nella concretezza, però in alcuni prodotti, per esempio, anche nel settore dell'abbigliamento e delle calzature c'è questo tipo di segnale, soprattutto non so, in alcuni settori delle scarpe sportive, per esempio, all'interno delle scatole viene messa una data di produzione, ecco. Poi dopo si tratterà evidentemente di trovare un sistema per renderlo davvero efficace e trasparente, però non lo disdegno. Esatto, ottimo. Allora, adesso fra un minuto dobbiamo andare in pausa, ascoltare il giornale radio, poi ritorniamo con la seconda parte nel programma entro pochissimi minuti. Poi c'era anche un altro tema che volevo affrontare, se volete farlo anche con noi, lo dico agli ascoltatori all'800 24 00 24. Prima l'avvocato Lo Iacono del Movimento Difesa del Cittadino dice: io anche con il ruolo che ho sto molto più attenta forse degli altri, ma La prima regola per me è rivolgermi al negoziante di fiducia. Ma Massoletti, questi negozi di fiducia stanno sempre più scomparendo nelle nostre città e chiaramente il mercato cambia, andiamo sempre di più nei grandi centri commerciali, però per voi questa è proprio come di girare il coltello un po' nella piaga. Purtroppo è proprio così, questi centri commerciali che non sono altro che il cavallo di Troia delle grandi multinazionali mondiali spesso mettono in difficoltà le piccole imprese commerciali che sono quelle che basano ancora la propria attività sul servizio verso il consumatore, ecco. Però purtroppo è proprio così. Allora adesso ci fermiamo, no, forse riesco a sentire Maria da Milano, non ce la facciamo, no? Paolo Corleone integerrimo mi dice no. Maria, però la posso salutare, me lo permetti, Maria? Sì, pronto. Guardi, devo andare in pausa, dobbiamo sentire il giornale radio. La posso sentire alla ripresa del programma fra 6-7 minuti? La chiudiamo e la richiamiamo noi. C'è il nostro Marco che la richiama, non si preoccupi. Grazie. Io chiedo a Carlo Massoletti, Dalila Loiacono, la dottoressa Tatiana Torti, qualche minuto di pazienza, riprendiamo a discutere di tutto ciò che attiene al mondo dei saldi dopo il giornale radio. Cuore e denari. Sono affetto da sindrome compulsiva d'acquisto. Ho assoluto bisogno di spendere un po'. Dottoressa Tatiana Torti, l'ha mai sentita questa canzone di questo cantante affetto da sindrome compulsiva d'acquisto? Forse non ha sentito la canzone, ma magari qualcuno può essere colpito da una patologia di questo tipo. È così? È diffusa o rara? No, direi che è abbastanza diffusa ultimamente, poi noi siamo stimolati, anzi super stimolati da ogni genere di merce, quindi in realtà come tutte le patologie anche questa è molto diffusa, bisogna trattarla come patologia, certo. Appunto, no? Per cui ci sono dei percorsi ad hoc per quel tipo di problema, però è vero che nel momento in cui ci arrivano i saldi, quindi ci mettiamo a confronto con queste realtà, anche dentro di noi che magari non abbiamo questa patologia, scatta quell'urgenza, no? Quindi il desiderio si trasforma quasi nell'urgenza di prendere qualcosa perché lo vedo come un guadagno unico e irripetibile, un'occasione unica che devo avere ora, quindi quasi proprio come nei meccanismi di patologia, in qualche modo, no? No, ma lei diceva ci sono dei meccanismi anche di recupero da questa problematica, che cosa si deve fare? Semplicemente si deve trattare come patologia, quindi sicuramente affidarsi a uno specialista psichiatra che valuti il discorso proprio cerebrale. Non dimentichiamoci mai che ho appunto tirato in ballo il cervello, perché è proprio lì che la sede della scelta dell'acquisto avviene. Quindi se si scardinano alcuni meccanismi cerebrali, da quel punto di vista il farmaco per esempio può servire, e poi una serie di strategie proprio comportamentali per non esporsi più di tanto all'acquisto, insomma facendo un percorso graduale, no? Ci sono diversi tipi di contenuti poi. Interessante, insomma, quindi abbiamo capito che qualche volta, come dire, anche certe situazioni che magari non avremmo mai immaginato sono delle vere e proprie sindromi, appunto come questa, quella compulsiva d'acquisto. Avrete capito, lo ribadisco agli ascoltatori che magari hanno perso la prima parte del programma, che stiamo parlando di saldi che partono oggi in tre regioni d'Italia, poi partono in via definitiva in tutte le città italiane sabato prossimo. Confcommercio si aspetta un giro d'affari, un movimento appunto del commercio per almeno 5 miliardi e mezzo di euro. Per i consumatori saranno possibili sconti tra il 30 e il 40% appunto dei capi di abbigliamento prevalentemente. Insomma, ci sono grandi aspettative per questa stagione, visto che il settore del commercio sta facendo i conti con una crisi nera, e la stiamo commentando con il vicepresidente della Federazione Moda Italia di Confcommercio Carlo Massoletti, ma anche con un'associazione dei consumatori, il Movimento Difesa del Cittadino, e l'avvocato Dalila Loiacono. Volevo però ancora scandagliare un po' gli aspetti emotivi dell'acquisto con la dottoressa Torti, con noi questa mattina, Tatiana Torti, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Poi le chiederò se da donna a donna anche a lei piace fare shopping, ma mi racconti un po' gli uomini come si comportano in questo frangente. Esiste una differenza di genere oppure non c'è saldo che tenga? Anche gli uomini possono cadere in questa sindrome? Dottoressa Torti, sì. Sì, direi che possono cadere anche gli uomini tranquillamente, ricordiamoci che appunto sono sempre le stesse aree del cervello quelle che si attivano, quindi quelle emotive, le emozioni guidano un po' tutto, forse l'uomo si dirige verso articoli diversi da quelli delle donne, ma questa appunto è una differenziazione un po' generale, come dicevamo prima magari l'uomo è più sulla tecnologia e la donna più sull'abbigliamento, però appunto ripeto, dipende poi sempre dal caso. Certo, quindi me lo voglio anche vedere un uomo, insomma, che fa una razzia di rossetti in una profumeria. Maria. 800 24 00 24 è il numero verde per continuare a commentare con noi il tema dei saldi da ogni punto di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista del risparmio, ma anche dal punto di vista appunto del comportamento, cosa si scatena in noi quando parte questa stagione. E intanto andiamo però a vedere di cosa si lamentano anche i commercianti. Maria da Milano è una di loro. Maria, buongiorno, ben trovata. Ecco, l'abbiamo fatta aspettare un po', ma siamo da lei. Buongiorno, io ho un negozio di abbigliamento e bigiotteria, non sempre a Milano. Faccio gli sconti al 30%. Le mie clienti conoscono già il prezzo base perché le clienti sono abituali. Poi viene qualcuno che ti dice: ah, ma in centro fanno il 50 e il 70%. Io ho potuto constatare che dei cazzi, lo stesso marchio che ho io, in centro lo vendono al 50%, che è il prezzo pieno di quello che vendo io abitualmente. Quindi non era una strategia usata dal suo cliente che ci provava dicendole: guarda che là No. Hanno ragione. Allora, in centro fanno un ricarico tale che poi al 50% lo vendono allo stesso prezzo che vendo io di prezzo pieno. Allora, perché noi già facciamo fatica così a sopravvivere, non possono fare il 50 e il 70%, perché vuol dire che hanno fatto un ricarico tali che gli permette di vendere a quel prezzo lì, che poi è lo stesso che vendo io, certo, a prezzo pieno. No, ma bisognerà vedere anche chi è caduto nella trappola di comprare a prezzo pieno, che è abnorme a questo punto, questi articoli che poi... Maria, cosa le devo dire? Coraggio, tenga duro, si tenga affezionatissima appunto alle sue clienti, sia particolarmente generosa con loro e quindi si mantenga il suo nucleo di affezionate per andare avanti, superare magari questa fase che continua ad essere ancora particolarmente critica. Allora, Carlo Massoletti, ma qual è quel commerciante che si può permettere uno sconto del 50-70% avendo in precedenza, visto che si è potuto permettere in precedenza un ricarico così alto appunto sul prezzo che mette, sul capo che mette in vendita? Ma guardi, devo dire che in questo caso forse dobbiamo ribaltare un pochettino il concetto. Qui abbiamo una negoziante che è una negoziante tradizionale che probabilmente fa questo lavoro da tanti anni, che grazie a delle economie d'impresa molto solide, magari si espone in prima persona, ha meno impiegati, il negozio ha un affitto contenuto, riesce ad applicare un ricarico sul prodotto che è un pochettino più contenuto di quanto non riesca a fare per esempio un negoziante del centro, che ha un affitto più caro, molto più personale e molti più costi. Ecco, devo dire che in questo caso si testimonia come il negozio tradizionale riesce a stare sul mercato e spesso a offrire dei valori e dei prezzi più vantaggiosi anche nei momenti di vendita normale, non solo nei saldi. Certo, poi dopo è evidente che nel momento in cui viene applicato lo sconto c'è questa strana distonia per cui a sconti, diciamo così, diversi corrisponde poi un prezzo finale che è lo stesso, però è proprio un po' il punto di partenza secondo me da analizzare. C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice, credo, che ci racconta che ritiene di non aver mai fatto grandi affari con i saldi, maglie con difetti di coloritura, stivali uno diverso dall'altro, causa esposizione alla luce, ritengo che durante i saldi l'attenzione deve essere il 200%, ma questo credo che valga anche in una fase in cui non ci sono i saldi. Non riesco mai ad essere soddisfatta. Il dottoressa Torti, volevo affrontare con lei invece il commento di questa ascoltatrice, che carica di grandissime aspettative questi saldi, dopodiché l'acquisto che fa non la soddisfa mai. È un problema di natura diversa questa, non tanto di quello che viene messo in vendita e quello che c'è in circolazione nei negozi. Ci produce anche questo, ecco. Sì, probabilmente sì, deriva da un altro tipo di soddisfazione, ma in realtà quando noi andiamo a comprare con i saldi dobbiamo stare attenti proprio in maniera più acuta a quello che è il prodotto, ma soprattutto dobbiamo domandarci se quello che stiamo acquistando fa per noi, quindi se è un capo che ci fa stare a nostro agio, se appunto ci valorizza, se il colore che scegliamo è quello giusto. Quindi ovviamente non dobbiamo comprare solo per partito preso, ma quello che ci valorizza di più è quello che ci farà stare meglio, certo. Poi la soddisfazione deriva da quello penso che sia la prima regola in generale. Dottoressa Torti, io magari, che ne so, adesso approfitterò nei prossimi giorni di questi sconti, farò qualche acquisto magari che avevo rimandato, ma magari non mi accorgo di cadere appunto in questo problema della sindrome compulsiva di cui parlavamo prima. Quali sono i segnali che devo tenere in considerazione? Che ne so, essermi per esempio portata a casa 10 articoli e 10 cose che non avrei mai comprato in tutta la mia vita, oppure ci sono altri aspetti, altri piccoli segnali da monitorare? Ma semplicemente dobbiamo domandarci, proprio quando siamo in negozio, anche prima di uscire, quante volte useremo quello che stiamo comprando? Quindi quante volte sfrutterò quelle scarpe, quel paio di stivali o quel paio di, non so, tutto quello che compriamo deve risultare sfruttabile, utile. Quindi ecco, io l'unico campanello d'allarme che vedo utile è proprio questo tipo di domande, uh-huh. Che possono essere effettuate anche al momento. Quindi richiamare un po' quella criticità, quella capacità critica appunto che il cervello in quel momento rischia di dimenticare, per poi ritrovarla buona dopo. C'è un'ascoltatrice invece che, a proposito, avvocato Lo Iacono, vengo a lei, di acquisti fatti e magari il difetto si è riscontrato solo qualche tempo dopo. Per esempio, sto litigando, ci racconta Anna, cassa integrata, alla quale facciamo i nostri auguri per poter risolvere soprattutto questa di situazione più che quella relativa alla borsetta. Sto litigando per una borsetta il cui difetto è venuto fuori dopo 4 mesi, chissà che cosa è successo. Avvocato Lo Iacono, la possiamo riportare indietro contestando questo difetto? E se il commerciante dice, ma insomma, me lo dici adesso, magari sei tu che in qualche maniera l'hai usata male e hai prodotto questo danno, avvocato? Allora, assolutamente sì, il commerciante è obbligato, ripeto, deve trattarsi di un vizio di conformità, quindi non può essere legato al nostro gusto personale, piuttosto che magari a un cambio di idea rispetto a quelle che sono le premesse. Tenga conto che ovviamente se è un difetto di conformità evidente, quindi comunque il prodotto non è conforme rispetto a quelle che erano le caratteristiche che c'erano state propalate di quel prodotto, il commerciante è obbligato a cambiarlo o comunque sia a ripararla o in estrema ratio via la risoluzione del contratto, ovvero la restituzione del denaro alla cliente che in qualche maniera deve ricevere quello che è stato il pagamento che aveva a suo tempo anticipato rispetto a questo prodotto acquistato. Il commerciante potrà proporre un buono sconto, per esempio, tenendo conto che ovviamente non è obbligata la cliente ad accettare questo buono di spesa, ecco, se vogliamo parlarlo, perché molti commercianti magari si regolano in tal senso, però ripeto, è una facoltà del consumatore accettarlo o meno. Però in questo caso, ecco, mi sento di dire che ovviamente il commerciante, qualora, ripeto, ci sia un difetto di conformità reale, è obbligato in qualche maniera a porre rimedio secondo quelli che sono i parametri del nostro codice del consumo. Allora, c'è un'ascoltatrice, Leonora da Treviso, che evidentemente si è messa in ascolto adesso, che scrive: perché non si fanno partire i saldi durante le feste natalizie come fanno per esempio negli Stati Uniti o nel Regno Unito? Abbiamo già scandagliato questo tema e Leonora però mi dà il pretesto per fare una domanda di tipo diverso a Carlo Massoletti, perché qualche associazione dei consumatori ha lanciato una proposta prima della partenza appunto dei saldi ufficiali, visto che negli Stati Uniti c'è il famoso Black Friday, cioè la giornata in cui partono i saldi, e questa giornata accade nel periodo appunto del ringraziamento. Perché in Italia non si fa un Black Saturday invece, Massoletti? Avete preso in considerazione questa idea delle associazioni dei consumatori e vedremo magari negli anni prossimi un'iniziativa di questo tipo? Ma guardi, in realtà, come tutte queste usanze che si portano da oltreoceano, anche questa sta, come dire, un pochettino sfondando in Italia. Io ricordo Halloween, una volta da noi non esisteva, adesso esiste, la gente fa festa, si traveste. Ecco, nello stesso modo, una volta il Black Friday non c'era, adesso c'è il Black Friday anche qui, che in realtà è un momento, è una vendita. La Black Week promozione è tutta la settimana qua. Sì, no, esatto, qui è tutto black, qui forse è il caso di chiamarlo pink, magari, in modo tale da renderlo un pochettino più lieve. Ecco. Però ecco, anche qui da noi sta prendendo piede questa formula, ecco, perciò questi sconti, queste promozioni che sono un pochettino travestite all'americana da momenti collettivi, ecco, è una cosa che anche da noi sta prendendo piede grazie a questi media, che soprattutto il web, che sta trasferendo queste usanze. Adesso c'è anche il Cyber Monday oltre a Black Friday, che viene subito dopo il Black Friday, e sono tutte formule che hanno successo, strategie di marketing innovative anche interessanti, e credo che poi verranno adottate sicuramente. Cosa sta da fare per campà, insomma, qua d'altronde bisogna adeguarsi alle novità. No, c'è chi, tra l'altro, noi stiamo parlando del negozio tradizionale, della concorrenza molto dura che stanno facendo da qualche anno a questa parte, ma il mondo sta andando così e dobbiamo adeguarci ai grandi centri commerciali, città proprio del commercio e gli outlet. Ma qua non parliamo, e c'è un ascoltatore che tra l'altro solleva anche questo tema, di quello che succede nei mercati, quello che succede nei mercati ambulanti, dove in realtà molti vanno, dove tranquillamente appunto molti... Eccolo qua, l'abbiamo pescato, ed è Francesco da Roma. Grazie Marco Lombardo che subito mi ha intercettato il pensiero. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Come va nel mercato ambulante? Ma il mercato ambulante sicuramente soffre come un po' tutto il commercio. Io partecipo con abbigliamento e calzature, però volevo dare così un mio contributo dicendo volentieri che effettivamente nei mercati dagli ambulanti si possono trovare dei capi di buonissima qualità a prezzi tutto l'anno più bassi dei saldi che vengono poi proposti durante il periodo. Questo effettivamente pone un quesito, no? E cioè qual è effettivamente l'obiettivo e il ricarico che i commercianti effettuano durante la stagione normale. Perché, ripeto, ci sono capi identici della stessa marca e quindi anche marche blasonate, insomma, importanti che vengono proposti a un prezzo decisamente inferiore. Certo, perché magari voi Francesco non dovete pagare l'affitto del negozio, però dovete pagare al comune il vostro posto, il posto in cui naturalmente mettete la vostra piccola vetrina, no? Chiamiamola così, però i costi probabilmente sono un po' inferiori rispetto ad un negozio tradizionale, quindi potete abbassare un pochino. Sicuramente, no? Sicuramente i costi che abbiamo sono inferiori a, diciamo, a negozi che sono al centro delle città. Però effettivamente abbiamo dei costi comunque abbastanza elevati. Tenete conto che se andate in un mercato e vedete una tenda di quelle elettriche che si apre sopra il furgone, costa 20 euro. Eccola là. Francesco, tenga botta anche lei, cosa le devo dire, anche con quest'aria che tira, però sentivo una bella voce. La saluto rapidamente perché vorrei sentire altri ascoltatori, devo ancora affrontare qualche altro aspetto con la dottoressa Torti, però... Gabriele da Varese tira fuori un'altra questione, anche questa più volte affrontata da questi microfoni che i commercianti conoscono molto bene, però Gabriele ci dica un po' rapidamente. Sì. Pronto? Sì, ci siamo. Sì, sono io, non sono da Varese, sono da Venezia. Ah, abbiamo sbagliato a scrivere sul nostro, ci scusi. No, volevo dire che le grandi aziende di abbigliamento hanno tutta una serie di produzioni che vanno per lotti di produzione e quindi c'è una prima scelta e c'è una rimanenza di magazzino presso le aziende. Quando si lavora in campagna, le aziende e i commercianti acquistano a un determinato prezzo e quindi hanno il ricarico che ho sentito dire che è quello che avete più volte fatto voi. Da cui, per esempio, dovrebbe essere il 98% perché c'era il 20% di IVA che influiva su questo. Poi, quello che rimane in magazzino all'azienda fa parte del costo di tutto il lotto di produzione, quindi le stesse aziende lo possono porre sul mercato ai commercianti a un prezzo inferiore, quindi non è tanto importante dal mio punto di vista quello che paga il commerciante in vendita, ma quanto il commerciante lo acquista e quando lo acquista, perché se io sono un'azienda che ha una rimanenza di magazzino che può essere di prima o di seconda scelta e gliela vendo a stock, dopo quello lo può vendere a come vuole e porre un ricarico come decide, perché se prima l'aveva pagato al 50% di quello che potrebbe essere il... Cioè Gabriele, guardi, sa che faccio fatica a seguirla. Allora, quello che lei ci dice è che magari lo stesso stock di maglie in relazione al momento in cui il commerciante le compra dal produttore appunto per poi rivenderle a sua volta è un prezzo diverso da quello che può essere magari una seconda scelta che acquista dalla stessa produzione, oppure di rimanenza di magazzino di quella campagna vendita o di quella stagione di vendita che è giacente presso l'azienda, per cui l'azienda che la vende, che la produce, che la vende al commerciante, la vende a un prezzo inferiore di quello che la vendeva al momento della campagna di vendita. Gabriele, in realtà io pensavo che lei volesse farci un commento diverso relativamente al fatto, come molti ritengono, che ci siano delle aziende che producono esclusivamente per i saldi. Poi ci ha articolato il suo ragionamento in maniera diversa, ma non importa. Massoletti, vuole aggiungere qualcosa su quello che diceva l'ascoltatore? Ma Ma guardi, è vero che anche chi produce poi deve a un certo punto liberare i magazzini e spesso lo fa scontando i prodotti, però altrettanto è vero che poi il negoziante, se acquisisce questo prodotto, trasferisce questo vantaggio al consumatore certo, attraverso delle vendite promozionali, ma questo succede per tutti i beni, esatto, non solo per l'abbigliamento. Volevo subito sentire, anzi no, allora, i saldi aiutano i nostri denari perché giustamente, come dire, appunto, possiamo proprio in questo periodo soddisfare una nostra esigenza d'acquisto che magari a prezzo pieno non avremmo potuto soddisfare, però non molto forse la nostra autostima, perché questi saldi maledetti cadono proprio subito dopo le feste, quando ci siamo rimpinzati come delle bestie in questo periodo e quindi ci presentiamo nel negozio a comprare magari quel pantalone che abbiamo tenuto d'occhio per 3 mesi e scopriamo che non troviamo la nostra taglia. Dottoressa Torti, qua anche l'autostima, come dire, deve essere presa in considerazione, no? In un periodo come questo, perché magari, ecco, quell'acquisto lì ce la fa tracollare di punto in bianco. Io direi che soprattutto l'autostima, perché ricordiamoci che acquistare vuol dire seguire quello che è un piacere, quindi come prima la regola è seguire quello che si è in quel momento, senza pensare che si perderà quel chilo, quei 2 chili presi, ci mettiamo davanti allo specchio con molta tranquillità, noi sappiamo qual è il capo d'abbigliamento che ci fa sentire più comodi, quindi meno stretti, e agiamo di pancia, quindi cerchiamo di acquistare quello che veramente ci fa stare meglio in assoluto, andando un po' al di là anche di quelli che sono i dettami della moda, ma la moda è personale, quindi l'autostima deriva proprio da questo, se io riesco a ritagliarmi qualcosa che è mio davvero e mi fa sentire bella, quindi sicuramente più belli, più in armonia, ma anche perché saremo stati in grado di non fare alleggerire il nostro portafoglio per spese inutili, soprattutto dopo il Natale. Certo, allora magari possiamo fare, come dire, diversamente, cioè comprare un bel pantalone strettino che ci fa stare molto bene, che ci piace molto come lo indossiamo, appunto, e ce lo teniamo per tutte le feste di Natale, in modo tale che non appena il bottone comincia un pochino a stringere, ecco che ci limitiamo anche con il cibo e stiamo meglio il 2 gennaio quando i saldi partono e quindi siamo tutti contenti, magari possiamo bissare l'acquisto del pantalone. Queste sono però un po' delle ricette campagnole come me. Sentiamo invece cosa combina Giuseppe da Cosenza, che fa il mystery shopper, e questa la voglio sentire tutta. Giuseppe, intanto, che tipo di lavoro è e che cosa scopre? Buongiorno. Mentre lo fa, ci dica un po' rapido. Buongiorno, perché tra 2 minuti devo salutare, tra 4 minuti, sì, 3, via. Mi dia il tempo di raccontare la mia storia. Certo. Allora, no, mystery shopper nasce da un progetto di una serie di grandi aziende che vogliono sapere per filo e per segno quello che succede in segreto nelle loro distribuzioni, cioè quando c'è un marchio che viene distribuito deve seguire delle regole, allora un po' perché siamo consumatori tutti e un po' anche perché l'azienda chiaramente vuole mantenere dei livelli, un codice di condotta adeguato. Io sono uno di quelli cattivi che però divento buono se visto dalla parte dei consumatori, che va a guardare in segreto, va a fare degli acquisti e vediamo anche la cortesia. Ci dica un po' che cosa le è capitato allora, perché adesso ci deve confessare tutto. di tutto e di più, cioè dal capo in saldo che deve essere cambiato e mi impunto perché deve essere cambiato, fino ad arrivare a far licenziare una ragazza che insomma non era in quei modi che si doveva porre con un cliente che ovviamente si presenta in maniera educata, cioè voglio dire, non posso sforare io ed essere maleducato. Ma io proprio vorrei che lei ci raccontasse la faccia che fanno i commercianti quando lei tira fuori la sua carta d'identità e dice che lavora. Io lo faccio totalmente in segreto. Quindi fa un rapporto, lo porta dopo, diciamo, all'azienda madre e basta. Esatto, a meno che non c'è un accordo con la casa madre che poi vado a riparlare con il direttore di sede. E lì poi la ringrazio per questa testimonianza. Rimaniamo in incognito perché è ovvio, cioè io poi ci ritornerò tante volte. Certo. E se poi mi riconoscono non lo faccio. Devo più salutarla, Giuseppe, grazie. Ma magari Carlo Massoletti, questa iniziativa che non so quanto sia bella, gradevole o meno, però ci dà la dimostrazione del fatto che voi siete molto attenti a quello che succede sul territorio e non siete contenti quando i consumatori vi raccontano di disavventure. In 5 secondi. Ah, è proprio così, noi siamo molto attenti, ci piace che con le imprese commerciali siano sempre molto trasparenti e siano davvero al servizio dei consumatori. Grazie a tutti, grazie a Carlo Massoletti, Dalila Loiacono, la dottoressa Tatiana Torti. Noi torniamo in diretta domani, grazie a tutti, buona giornata.